A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Qui, davanti al comune di Monterosso, il fango ora è negli interstizi delle pietre, nelle aiuole rivoltate, nel velo di polvere sulla statua di Garibaldi. Davanti al mare non c'è più la collina delle cose perse, strappate insieme alle vite e alle case. La gente torna a camminare lungo via Roma, la stradina principale che l'alluvione aveva trasformato in un unico terrapieno di detriti. Ma come il corpo di una donna violata, un paese investito dall'alluvione nasconde a lungo cicatrici che sfuggono ad un primo sguardo. Le bambole che spuntano dai cumuli di terra ancora non rimossi ai lati delle strade, gli scheletri vuoti delle case travolte. E Monterosso, perla delle Cinque Terre, è anche il posto che più in fretta e meglio ha reagito alla violenza dell'acqua e della terra. Ma anch'esso, come tutti i paesi, tanti feriti in Italia, scruta ora il cielo con paura quando le nubi portano piogge. Eppure la pioggia cade, puntuale da autunno. E allora perché deve fare paura? Partiamo da qui, da questo molo di Monterosso appena ripulito e da questa domanda per una nuova puntata di A ciascuno il suo. C'è indubbiamente una condizione preesistente che è legata anche alla conformazione geologica e geomorfologica del nostro paese. Se a questa fragilità si aggiunge la mano dell'uomo, che si è tradotta in un aumento esponenziale in alcune parti del paese della densità della popolazione, l'abbandono dei terreni montani, di questo si è avuto contezza soprattutto nelle vicende ligure toscane, l'abusivismo edilizio, il continuo disboscamento, l'uso di tecniche agricole poco rispettose dell'ambiente e ovviamente nel caso specifico anche la mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d'acqua, ecco, questo mix produce queste situazioni. A sorvolare l'Italia con in mano le mappe del rischio idrogeologico, un'unica costante sembra unire le Alpi alla Sicilia, lo sprezzo del pericolo. Case lungo gli argini dei fiumi, stabilimenti sui pendii delle colline, strade al posto dei torrenti. Nelle zone rosse, a rischio cioè di frane e alluvioni, si abita e si abita tanto. Sono 400.000 i sistemi franosi contati in tutta la penisola, tanto che la Protezione Civile nei suoi atti definisce diffuso in modo capillare il rischio di alluvioni, che hanno una frequenza sempre maggiore. Nonostante ciò, si scrutano le nubi in cielo e non sono poche le località in cui si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, per dirla con Giuseppe Ungaretti. E la nostra storia recente a dimostrarlo. Sono talmente tante che su Wikipedia è stata creata una voce ad hoc. Lista di alluvioni e inondazioni in Italia, senza andare indietro agli anni della monarchia o ai disastri consegnati ormai ai libri di storia. Dal 1951 ad oggi si contano almeno 36 casi in cui l'acqua e il fango hanno lasciato morti e feriti dietro di sé, da una parte all'altra del paese. In quello stesso anno le alluvioni ci furono prima in Calabria, poi nel Polesine, e da allora in poi, con una media di circa 3 anni, le alluvioni hanno sommerso piccoli centri o grandi città, distrutto opere d'arte e lasciato senza casa migliaia di famiglie. Nel 1966 l'acqua dell'Arno sommerse Firenze con i suoi tesori e uccise 34 persone, secondo le stime ufficiali. Ma prima ci fu il Polesine con 84 vittime. E poi ci sono stati disastri con ancora più morti. Dall'alluvione nel Salernitano del 1954, che segnò la fine della vita per 318 persone, a quelle in Piemonte, Trentino o Marche. O al dramma del Vajont, l'onda che dalla diga sommerse 2.000 persone, con un balzo di quasi 3 decenni, passando per una serie di inondazioni meno catastrofiche, si arriva alla Valtellina dell'estate 1987, con 53 morti, a quella del Tanaro in Piemonte, con 70 vittime, e poi la Versilia, Crotone, fino alla lava fredda che soffocò nel 1998 Sarno e 159 persone. Dal 2000 è il messinese che ha pagato il tributo più alto di vittime per alluvioni, 36 nell'ottobre 2009 tra Scaletta Zanclea e Giampiglieri, 4 le alluvioni del 2010, causa della morte di 8 persone, tra Vicenza e Prato soprattutto. Nell'ultimo anno, prima della Lunigiana e delle Cinque Terre, il fango ha portato morte nelle Marche, a Casette d'Ete e a Roma. La popolazione evacuata è impossibilitata a provvedere autonomamente. Case sventrate, auto trascinate, urla disperate. Cambia il contesto o la regione, ma nelle zone colpite dalle alluvioni le immagini di distruzione si somigliano un po' tutte, come il dolore di chi ha lutti da piangere.

Il nostro paese è mappato, esistono i PAI, che sono questi piani che definiscono le aree che sono esondabili. Sarebbe, come dire, un passo in avanti se ogni cittadino sapesse dov'è la propria abitazione, perché le aree che sono state in qualche modo allagate da queste recenti alluvioni, salvo situazioni un po' particolari come le Cinque Terre, ma le aree della Val di Magra piuttosto che le aree della Val di Vara, piuttosto che altre aree che in questi anni sono state oggetto di esondazioni, sono aree ampiamente conosciute e riconoscibili. Quanti cittadini hanno contezza di ciò? Quante amministrazioni hanno piani che possono essere utili a queste situazioni? Io credo molto poco. Le case popolari sono messe così tutti gli anni, hanno sempre la paura del fiume che gli venga in casa. E quindi anche dopo le passate alluvioni non è cambiato nulla? No. 16 anni il letto del fiume è salito 10 metri, mai una ruspa, mai niente. Tre volte in 15 giorni via di casa l'anno scorso. Ogni volta che pioveva dovevi andare via di casa. A ciascuno il suo. Tutto è cominciato all'improvviso, senza segnali, nella notte dal 3 al 4 novembre. Verso le 3 del mattino l'Arno aveva superato il livello di guardia. Verso la fine della mattina la città era per 2/3 allagata, percorsa da fiumi di acqua e di fango. La voce di Richard Burton ci riporta al 1966, tra le strade sommerse di Firenze. Auto che galleggiano, case invase di acqua, pezzi di vita scaraventati dal chiuso delle stanze al centro delle piazze, come la collina delle cose perse di Monterosso portate dal fango davanti al mare. Ma come abbiamo già visto nella prima parte di A ciascuno il suo, se ciascuno di noi forse ricorda solo le alluvioni più drammatiche e devastanti, e non sono niente affatto poche, solo dal 1951 ad oggi, oggi l'Italia ne ha contati almeno 36, con centinaia e centinaia di morti, che sembrano però ogni volta vittime di una sventura improvvisa, e non del fatto che nel nostro paese si contano 400.000 sistemi franosi e nonostante ciò nelle zone rosse si abita, e si abita non poco, e nonostante ciò, ha già detto il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, in Italia si spende 80 per risarcire le vittime, 20 per la manutenzione del territorio e la prevenzione. Siamo in autunno, a volte si dicevano non ci sono più le mezze stagioni. Ma la domanda è normale che in un autunno che normalmente appunto è caratterizzato da precipitazioni ci siano persone come cittadini di Aulla che mi hanno raccontato di vivere ogni volta con l'ansia di dover lasciare la casa all'ultimo momento, che l'anno scorso sono scappati da casa loro 3 volte per il rischio di alluvioni? Qual è il problema? Non sono case abusive, ma è una forma di abusivismo legalizzato, potremmo definire. Paese dove i condoni non mancano e dove sono abbastanza reiterati, per cui se uno la casa l'ha costruita in un luogo dove non doveva costruirla e poi questa viene condonata e sanata, poi si realizzano queste situazioni. Leggevo il commento che il procuratore della Repubblica di La Spezia o di Massa Carrara, a seguito di un sorvolo fatto nella Valle del Magra, sottolineava con sconcerto come innumerevoli abitazioni, manufatti e quant'altro si trovavano in zone chiaramente a rischio. Se si fanno insediamenti industriali come quelli sul Magra e tutte le volte si va sotto, poi è complicato dire si mette a rischio l'occupazione, la produzione. Signori miei, ma se voi avete costruito e realizzato laddove non era corretto costruire. Quindi secondo lei, prefetto, queste vittime delle alluvioni in Italia sono anche un po' il prezzo della politica del condono? Sicuramente sì. Nera che porta via la via. Nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce nera. Lungo il fiume Magra in Lunigiana, l'ultima alluvione ha bloccato il progetto di costruzione di un grande outlet e sono tante le case, anche popolari, edificate molto vicine agli argini che più volte, solo negli ultimi anni, non hanno retto. A Vernazza, nelle Cinque Terre, sotto accusa ora dopo il fango, è finito un parcheggio, come a Monterosso, l'antica costruzione di una stradina che è andata a coprire l'originario torrente, caro a Eugenio Montale. Per non andare a citare i palazzi di Sarno o le case abusive del Messinese. Forse anche se in realtà più o meno indietro nel tempo c'è un'unica politica, quella che poi porta al piano casa. Tutta la sua elencazione purtroppo è difficilmente contestabile. Lei ha diramato circolare per sollecitare più coordinamento e più informazione, perché non c'era, non era sufficiente? Sono note che il Dipartimento fa tutti gli anni e questo secondo me non è una cosa molto positiva, perché se tutti gli anni dobbiamo ripetere le stesse cose, quasi in una sorta di mettiamoci le carte a posto, e evidentemente come è avvenuto non sempre tutto il territorio cui ci rivolgiamo è pronto a recepire queste istanze, si conferma che noi dobbiamo fare ancora un bel lungo tratto di strada. Cambierebbe qualcosa se gli amministratori locali, dai sindaci agli enti locali di vario tipo, sarebbero in qualche modo anche chiamati ad essere responsabili, anche penalmente eventualmente, degli effetti delle alluvioni? Basterebbe prendere la sentenza Sarno, che è una sentenza della quarta sezione penale della Cassazione, che sancisce in maniera inequivoca le responsabilità penali degli amministratori, da un punto di vista di quello che non è stato fatto prima e quello che non è stato fatto in ambito di protezione civile. È applicata la legge, ma è lo stesso problema che abbiamo per qualsiasi altra tipologia di reato. Io credo fortissimamente, soprattutto in questi temi, che più che le leggi, la differenza la fa la cultura. Quest'ultimo caso per il Magra, le autorità di Aulla, dal sindaco in primis, dicono: ma noi volevamo fare degli interventi sul fiume, l'autorità di Bacino diceva che quegli interventi non erano necessari. Insomma, c'è confusione di competenze o è scarica barile? C'è sicuramente una confusione di competenze che soprattutto in questo particolare settore si denota in maniera anche eclatante. A volte ci sono delle sovrapposizioni e delle conflittualità che, come nella vicenda da lei citata, che purtroppo è reale, poi portano ad una sorta di immobilismo. Bisognerebbe individuare degli enti e delle autorità che sono responsabili per un determinato settore, non fare dei fritti misti nei quali poi alla fin fine quello che vince è una sorta di deresponsabilizzazione collettiva. Lei aveva denunciato, ahimè, proprio pochi giorni prima dell'alluvione tra Liguria e Toscana, aveva detto non ci siano tagli per la protezione civile e per la prevenzione dei dissesti idrogeologici. Ha avuto qualche tipo di assicurazione? Esiste sempre il rischio di tagli? I tagli purtroppo ci sono stati e temo che ce ne saranno ancora, fino al momento in cui non sarà possibile più tagliare niente. Al cosiddetto decisore politico sta la responsabilità di fare le scelte dovute. Ma la storia d'Italia ci mostra che le scelte sono sempre più spesso dettate dalle contingenze che dalla prevenzione, dal pericolo della pioggia che arriva, quando non, molto spesso, dall'emergenza per la pioggia che è già arrivata. Acqua di spillifitti dal cielo e dai soffitti. Passa sfila tra la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore. Dolce nera senza colore. Acqua che si carica del colore della terra quando porta sventura e si scurisce, come nel tempo è successo, alla tavolozza di parole di Eugenio Montale, poeta che amava Monterosso e amava i suoi colori, ma cantò anche le paure della bufera. Allora, la tradizionale chiusura letteraria di A ciascuno il suo, questa volta è col poeta ligure, nelle parole del critico letterario Daniele Giglioli. Eugenio Montale ha esordito sicuramente come poeta del sole, della solarità. Gli ossi di seppia sono un libro in cui si parla di un'estate. Poi poco a poco la tavolozza gli si è scurita, già nel secondo libro, Le occasioni, e poi pensiamo che il terzo libro si chiama La bufera. Si apre proprio con una poesia che parla della bufera. Scrisse anche una poesia piuttosto d'occasione nel 1966, quando ci fu l'alluvione di Firenze. Comincia così: l'alluvione ha sommerso il pack dei mobili, ha portato via proprio tutto. A man mano che il Montale un pochino si ingrugniva, incrementava il suo versante più cinico, scettico, diciamo così. Forse la forma più alta di espressione in cui lui ha messo insieme la grande densità del paesaggio e però invece la violenza degli elementi e anche della storia, perché la bufera allude anche a Hitler, allude anche appunto alla guerra, all'emergenza, ai bombardamenti, è proprio quel libro lì che è pubblicato nel 1956. Ed è tutto per questa settimana. Vi ricordo che potete riascoltare e scaricare questa, come tutte le altre puntate di A ciascuno il suo, sul sito radio24.it nella sezione podcast, oppure direttamente su iTunes. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, nome della nostra vecchia trasmissione, e sul blog Storiacce. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.